che poi è perché il fondale è scuro, perché stamattina io sono arrivata al mare tristissimo, era cristallino. Sai che abbiamo quel fondo nero, come muovi la sabbia, diventa sempre fondo. Poi là dove ero io a Colbe, il lago è grosso, se vai a lì a Colbe, anche da noi. Una anche tanto. La vedi bella quando c'è la secca, allora vedi l'acqua trasparente. Sì, una secca. La scorsa settimana. Visto che ci sta la sabbia bianca. Oh, ci sono mai stata, deve essere meravigliosa. Thank you. Dio Cagliari. Sta arrivando, vedi come si avvicina al zaino, guarda. Ma sa, si è fatto mai. Vedi? Vabbè, però se c'è il freddo la lascino dopo, ma non si sente guidato. Allora, è avverso, quando arriva vicina. Mi fai? Là, facciamo più una cinquantina di metri a nuoto, è là. Sto pezzetto anche a nuoto. Io vedo la punta degli alberi e basta. Vado in su, ma io tengo io però. Io tanto vado un pochino più su, adesso c'è da vedere qualcosa. Tanto io sto da questa lato. Anche io. Ora ci andiamo, io vogliamo per la barca. Va bene, sto qui. Va bene, sto qui. Se no andiamo laggiù anche noi. Dove sei? Signore, vedo un sacco di signore là. La sinistra, la destra. C'è una chiorba davanti. No, niente tesoro, niente, la gente è molto matura. Guarda. Ma io mi sono messa apposta qui perché mi voglio far vedere, Zeno, così non mi scappo, stai tranquillo. Dove vuoi che scappi io? Viaggio per Patò. Vai via la lady. Dopo viene la polizia, porta la macchina. Hello? Dov'è andata la mattuccia? C'è Lucia, allora. C'è più neanche, intanto c'era anche un spiraglio, neanche uno spiraglio. Nonna, e qual è la tua nonna? La mia nonna. Si è arrivata quasi qui. Fermo, no, dopo puoi vedi anche te. No, dopo. Dopo quando arrivavo fatti la mamma. Ma mi fai male, Zeno? Come fai? No, a chi la dai? Dai, ti fa passare. Non ce la faccio se non Zeno te lo dico, io. Non voglio, ma che te dai, questa è sulla nonna, cioè, se te lo metti alle spalle poi la nonna si casca anche no. Tutto un sputo? No, ma te più che altro è non uscendo perché c'è lo spesso. La presa? Devi mettere sotto così. Della nave proprio. Ha vinto sempre. Nave Vespucci, nave Vespucci, da portate le forze dei marmi, mi ricevi canale 72, cambio. Nave Vespucci. Sì, nave Vespucci, passo l'apparato al dottor Muzzi, sindaco di Forte dei Marmi. Da qui, registriamo. Ma cosa? Ricevuto il comandante al micro. Buonasera comandante, e innanzitutto grazie per il meraviglioso regalo che fa a tutta Forte dei Marmi e per l'impegno che ho visto, siete dovuti tornare indietro e ritornare, grazie mille veramente da parte di tutti noi, una meravigliosa nave, non so che altro dirle. Una meravigliosa nave per una meravigliosa costa, grazie a voi dello spettacolo di questo pomeriggio, è stato bellissimo navigare di fronte alla litorale dell'Alta Toscana e rivedere lidi familiari per Nave Vespucci e per tutto il suo equipaggio. Bene comandante, noi di nuovo la ringraziamo, la salutiamo, vi auguriamo buon vento e buon arrivo, buon viaggio e poi spero che ci sentiremo. A presto. Grazie a voi, buona serata. E grazie ancora di questa opportunità. Buon Guarda la mia bella. È fatta della foto, è una pazzia. Abbiamo ora questo faretto. Vediamo 3 secondi a fare. Suonare. Vuoi salire su? No, no, vai, vai. No, no, no. No, no, no. Quando davanti qui fa tutta la mia spettina. La mandavo. Dovuto tornare qui. Ecco che era la mia spettina. Bene, dai. Aspetta che non c'è la Francesca. Anche finto, come ha detto il signore. Queste sono tutte le bandiere meno che la nave. È strano il mondo. e poi le foto. Me la fate due tre. Ma che tutte le teste ho preso? Sono del buchetto. Ma sei che buone anche vicino. No. Aspetta, scancerò le teste. Ora si va tutti di sotto. Lo tengo io. Che perché ora guardate come faccio a andare contro quello. Buonasera molto. Grazie. Grazie per quello che fa. Grazie. Siete gentili, grazie a voi. No, no, tutto quello che mi ci tenete mi diverto. Andiamo. Sì. State finché volete, tanto non costa nulla. Lo aspetto qui. Ci vediamo. Buonasera. Sì. Capito, quello per farci. Ciao, tu, ci vediamo. Sì, ciao. Arrivederci. Quando scende forse che va in forse quando è vero quando va si è avvicinata è più lontana dice no. Voi che vedete meglio ma si è avvicinata no, si vede ce l'ha fatta? Sì. Grazie. Dove sono? Sicuro? Sì, sì. Tanto non so capire dov'è. Vieni qui. Ah, si va giù. Ciao, G. Caccia di drone. Oddio, lui è avventuroso. Ma va più. Andre! No, non la trovavo più. Va bene. Sì, dimmi che aspetti suo padre per farsi la carta però, C'è il posto. Andiamo più avanti. Ma dove? No, c'è. Era impazzito. Andre, venga più avanti. Ciao, grazie. ma questo telefono non lo vede là. No, lo tieni con un coso. Aldo! Sto pigliando il largo, guarda, si dà. Pensavo che passasse più vicino.